Non basta la libertà da, la libertà di, la libertà. E poi siamo pienamente liberi. Quando mettiamo la libertà da, la libertà di, al senso della libertà per, e la vuol dire la libertà obbligare, quale che sia. Ognuno deve essere lasciato libero di scegliere. Per dirlo una parola che pure ricorre nelle cicli, la libertà per è la vocazione. Già Max Weber, voi sapete, aveva parlato di vocazioni in un contesto diverso, eccetera. E oggi però, quando si parla di vocazione, la gente di denti o pensa che siano cose. Pensate a quale livello è arrivata la nostra ignoranza. Eppure sta fiorendo un filone di studio, di ricerca in economia, che è la disciplina che io professo, che si chiama The Economics of Vocation, l'economia della vocazione. E in Italia abbiamo ancora fatica a far capire agli intellettuali che l'economia della vocazione non è una vocazione di realizzare e in concreto la libertà per. Infine, la terza parola chiave è quella di bene comune. Terza parola chiave che pure identifica una via di uscita dai paradossi di cui abbiamo detto. E cioè è il chiarimento della differenza che c'è tra il concetto di bene comune e il concetto di bene totale. Vedete, oggi tutti usano la parola bene comune. Da 2, 3, 4 anni. Prima non lo usava nessuno. Fate vedere anche i discorsi dei politici. Si usava sempre il bene totale oppure il bene collettivo. Pochi usavano il bene comune. Oggi il bene comune è sulla bocca di tutti. Già da qualche uno si chiede come mai succede questo. È solo un fatto, come dire, semantico, è sintattico, no, è semantico. Perché vedete, nelle cicliche c'è il chiarimento tra la differenza che c'è tra il concetto di bene comune e il concetto di bene totale. Ora, il bene collettivo non viene chiamato in causa perché quello è associato a un particolare modello di organizzazione socio-economica che è quella del collettivismo, eccetera. Invece il bene totale è l'antidoto del bene comune, antidoto. E uno dice, ma è sempre bene? Sì, però è totale. E cioè, il bene totale è figlio dell'utilitarismo, di quella etica, teoria etica, di filosofia morale, che è l'utilitarismo di Jeremy Bentham, 1789. Per la logica del bene totale, quello che importa è massimizzare la somma delle utilità individuali, quindi la tua utilità più la sua, più la sua, più la sua. E quindi l'agire economico e l'agire politico deve tendere a massimizzare la somma delle utilità individuali. Il bene comune invece è un prodotto, non è una somma, è il prodotto del bene individuale. Voi mi direte, ma che differenza c'è? Dico io la differenza. In quintetale ce ne ha spiegate queste cose, Nessuno dire non lo sapeva. Cosa ci ha spiegato la maestra di elementare? Che differenza è tra una somma e un prodotto? E la somma, se uno o più addendi vengono dati, la somma resta così, giusto? Anzi, può accadere che se io tolgo a qualcuno e lo do ad altri, la somma aumenta. Perché tolgo il bene a quelli che sono un po', lo do agli altri, sono efficienti, il bene totale viene aumentato. Ma in un prodotto questo non è possibile. Perché in un prodotto, se anche un solo fattore viene annullato, l'intero prodotto risulta annullato. Cosa fa zero che moltiplica un miliardo? Zero più un miliardo fa un miliardo. Quindi capite che nella logica del bene comune non sono possibili trade-off. Io non posso sacrificare il bene di qualcuno per aumentare più che in proporzione il bene di qualcun altro. E anche questo è un concetto che intrigherà le nostre menti, i nostri programmi di vita ancora lungo nel futuro. Perché molti applicano, cosa succede? Che applicano la logica del bene totale in certi ambiti e la logica del bene comune in altri ambiti. Non funziona. Questo spiega anche la crisi della politica. Perché se tu la logica del bene comune non ti consente di sacrificare il bene che può essere la vita come le condizioni di vita di qualcuno per aumentare più che il pro. Tendiamo, uno può farlo, però deve dire, deve essere onesto, intellettuale, deve dire io non credo al bene comune, io sono un utilitarista, credo al bene totale. Però la gente che ti ascolta è in grado di valutare, eccetera, eccetera. Ho finito il mio tempo, quindi devo concludere. Devo concludere dicendo, vedete, come queste tre parole, che servono parole, in effetti rappresentano altrettanti campi di applicazione, fraternità, libertà per e bene comune versus bene totale. Ovviamente a questo punto non, le ricette non devono essere scritte, sarebbe violato il principio di laicità. Sta a chi, per un motivo o per l'altro, si riconosce in questi principi fondativi, trovare i modi concreti di declinarli nell'attualità e così. E per concludere, vorrei dire, dato anche la natura del luogo che qui ci ospita, che cosa ha da dirci la storia che ho brevemente narrato negli ultimi 45 minuti? Da dirci a chi vive nel mondo dell'università, nel mondo di, come dire, del luogo di produzione dell'alta cultura. Per rispondere, noi lasciate che ricordi, l'università è un frutto maturo del Medioevo, e l'università è nata in Italia, a Bologna. Però io non devo difendere, perché io non ho studiato a Bologna, quindi ho studiato a Milano, però la verità storica è quella che è. Ora, nel Medioevo, è basato sulla distinzione tra studium e imperium. Questa distinzione tra studium e imperium a sua volta si fondava sull'antitesi tra l'esercizio del potere, che è prerogativa dell'imperium, e la conoscenza, come ricerca della verità, che è prerogativa del studium. Arriva poi la modernità, finisce il Medioevo, e nella modernità avviene qualcosa veramente di nuovo. E cioè, la modernità ha messo lo studium al servizio dell'imperio. Il primo a denunciare questo è stato un grande intellettuale francese, Ernest Renan, che tutti più o meno conosciamo. Ebbene, Renan è stato tra i primi a sottolineare la subordinazione dello studium all'imperio e le conseguenze. Se voi ricordate nel libro che ha il titolo, se non vado errato, La riforma intellettuale e morale, pubblicato nel 1871, Renan racconta la storia perché la Prussia di Bismarck vince contro la Francia di Napoleone III, che la Prussia di Bismarck aveva adottato e aveva preso sotto la propria ala protettiva l'università di Bologna, Berlino, c'è ancora. E cioè ha messo studio al servizio dell'imperio, quindi la Prussia vince. Questo lo dice Renan e lo spiega molto bene. Più vicini a noi, lo stesso modello è accaduto negli Stati Uniti. Qual è stata la grande abilità degli Stati Uniti, che molti ancora si sforzano di non capire? Tutto qui. Di mettere lo studio al servizio dell'imperium economico, autoritario, o più in generale culturale. E i migliori tempi di ricerca, eccetera, eccetera. Ora, io non sto dando un giudizio, sto dicendo come sono andate le cose. Il fatto è che oggi viviamo in un'epoca di povertà. E oggi tutti sanno che questo non funziona. Allora, qual è l'obiettivo da seguire? Quello di rimettere in ordine le cose. Cioè, bisogna che studium e imperium, di cui abbiamo necessità, perché la gestione del potere non può essere svinaneggiata come spesso viene, su un piano di parità, evitando che una sia subordinata all'altra. Questa, secondo me, è veramente la sfida dei tempi che sono fuori. Che in termini più vicini a noi, più concreti, vuol dire trovare il modo di far comprendere e di applicare che è necessario, è giunto il tempo di amare lo studio e di studiare l'amore. Cosa vuol dire amare lo studio e studiare l'amore? Cioè vuol dire liberarci da quella concezione che ha reso l'amore soltanto nella sua dimensione dell'eros, dimenticando la filia e la gabe, che sono i tre livelli dell'amore di cui già Aristotele aveva parlato. Aver ridotto l'amore soltanto alla dimensione animale dell'eros è oggi ci fa dire perché parlare di amare lo studio, studiare l'amore, suoni strano. Ma soprattutto vuol dire anche eliminare quel concetto dello studio come nozionismo neofunzionalista. Cioè tu studi solo per far funzionare qualcosa, che non vuol dire che non ci deve essere, ma non puoi ridurlo. E allora la sfida che un luogo universitario come questo, in questa residenza più in generale della nostra università, è quello di trovare i modi di ritornare a esaltare forme di supremazia dell'una dimensione dello studio nei confronti dell'impero. E questo, secondo me, è il miglior antidoto per uscire dalle sedie di, lasciate che concluda con due metafore che ci aiutano a capire l'urgenza di un impegno di questo tipo. La metafora di Sisifo e la metafora di Prometeo. Sisifo era un ingegnere, tra virgolette, è uno che sapeva benissimo i mezzi, ma sbagliava i fini.